9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatori, la sigla è quella solita, l'introduzione, la politica nel tunnel, abbiamo sentito il nostro ascoltatore Angelo da Bergamo, ormai un mito, prima o poi lo riconvocheremo in trasmissione apposta per dirci se è soddisfatto del gioco delle figurine che si sta svolgendo in questo periodo. È mio dovere dirvi, anche perché di solito insomma siamo soliti accogliere i vostri interventi in onda, che questa è una puntata registrata lunedì di Pasquetta e insomma, se volete, mettiamola così, ce la prendiamo comoda e ce la prendiamo anche un po' più di lungo respiro. Invece di stare sulle cose italiane, invece di occuparci solamente del nostro ombelico, cerchiamo di guardare un po' più lontano, per l'esattezza al 2020, e tra un attimo vi spiegherò perché. Ci occupiamo di strategie energetiche, di quello che sta cambiando nel mondo, in parte qua dai nostri microfoni, qua a Radio 24 vi abbiamo raccontato della rivoluzione dello shale gas, ossia questo nuovo metodo di estrazione che c'è negli Stati Uniti, poi scenderemo nel dettaglio, che permette agli Stati Uniti un'autosufficienza dal punto di vista del gas, permette di essere una potenza dal punto di vista del gas. Ebbene, la cosa sta avvenendo con gli stessi metodi di estrazione anche dal punto di vista del petrolio. Questo naturalmente cambia gli assetti internazionali, evidentemente, perché cambia gli interessi degli Stati Uniti in una serie di aree strategiche e modifica l'impostazione delle politiche energetiche che sono al centro di tante rivoluzioni geopolitiche alle quali abbiamo assistito negli anni, anzi negli ultimi decenni. È di questo che parliamo oggi. Carlo Germano, partner di McKinsey, responsabile settore energia, buongiorno. Buongiorno. La nostra mitica Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, che insomma ne scrive quotidianamente di tutto questo. Buongiorno Sissi. Troppo gentile per il mitica, buongiorno. Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni, invece al telefono, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Germano, iniziamo da lei, ci dia qualche numero, in senso buono naturalmente. Numeri buoni. Che cosa sta succedendo dal punto di vista della produzione di petrolio negli Stati Uniti? Recentemente, e anche sull'onda delle tecnologie sviluppate per lo shale gas, sono state individuate tutta una serie di nuove risorse che possono essere recuperate, quindi una quantità di riserve petrolifere molto significativa, che sta arrivando progressivamente, molto in fretta anche in produzione, e che porta gli Stati Uniti a una progressiva riduzione del fabbisogno netto di importazione di greggio. Stiamo parlando di una produzione che potrebbe passare dagli attuali 5 milioni di barili al giorno fino a 10-11 milioni di barili al giorno, cioè, per darvi un'idea, questo lo dice l'Agenzia Internazionale dell'Energia, gli Stati Uniti potrebbero diventare il primo produttore, o molto simile all'Arabia Saudita come livello di produzione, già entro il 2020. Riserve non ancora stimabili, immagino. Allora, le riserve pienamente, non... diciamo. Esatto, non sono ancora pienamente stimabili e ci sono grosse divergenze sugli scenari perché si tratta di formazioni geologiche che fino ad oggi venivano considerate non sfruttabili, quindi non si cercavano praticamente. Ad oggi ne sono stati individuati almeno due bacini che sono molto interessanti, sono già in produzione, uno nel Nord Dakota, nella zona centro-settentrionale, l'altro invece in Texas, ma si suppone che ne esistano altri, quindi o è possibile che ne esistano altre di questo tipo. Quindi anche il livello di produzione dipenderà molto da quanti di questi, come li chiamano gli americani, di quanti di questi place saranno poi sfruttati e sfruttabili nel corso dei prossimi anni. La concentrazione di riserve è per adesso soprattutto negli Stati Uniti, e soprattutto quelle che sono in produzione sono negli Stati Uniti. Queste formazioni geologiche però sono presenti anche in tanti altri posti nel mondo. E quindi una rivoluzione che sta arrivando. Sì, Bellomo, poi verremo anche ai dettagli di come funziona tutto questo, anche di come funziona l'estrazione di questo petrolio, e quindi anche poi magari vedremo se riusciremo ad accennarne alle proteste che questo può generare, perché l'impatto ambientale è anche più potente dal punto di vista visivo di quello di un pozzo di petrolio normale. Visivo no. Però la forte vicinanza tra i pozzi sono pozzi molto bassi, però sono trivelle molto basse, visivamente è l'ultimo dei problemi, credo. Sì. Ci sono problemi ben più seri che sono di inquinamento delle falde acquifere, perché se vogliamo anticipare qualche cosa. Prego. Tanto non sono tecniche nuovissime, la vera novità è di usarle insieme, perché questo famoso fracking di cui si discute, che è la fratturazione idraulica in italiano, è un metodo che veniva usato anche molti anni fa per potenziare l'estrazione di petrolio da pozzi. Spiegacelo brutale. Allora scende giù una trivella e poi spacca la roccia. È come se si iniettasse nel terreno, anzi non come se, si fa proprio questo, si inietta nel terreno ad altissima pressione un fluido che è a base acqua, però contiene sostanze come sabbie, come sostanze chimiche. Si consuma moltissima acqua in questo procedimento e si reinietta nel terreno quest'acqua mista delle sostanze chimiche, per l'appunto, per cui c'è un tema di inquinazione delle falde acquifere. Questo non è un metodo nuovissimo, come ti dicevo. La cosa nuova è stata di abbinarla alla trivellazione orizzontale. I pozzi non vengono più scavati verticalmente nel terreno, perpendicolarmente al terreno, ma in orizzontale. In questo modo si riesce a intercettare una serie di sacche che contengono idrocarburi, gas, petrolio, che una volta si sapeva anche che fossero lì, si sa da molto tempo. Ci sono zone negli Stati Uniti dove basta raccogliere del terreno e si vede che è impregnato di petrolio, di sostanze, e non si sapeva come tirarlo fuori. Si erano provati altri metodi, triturazione di rocce immense, facevano degli esperimenti sulle montagne del Colorado che erano ancora più devastanti dal punto di vista dell'ecologia, della tutela dell'ambiente. Questo ha un impatto un po' meno devastante, ma purtroppo è ancora un metodo inquinante. Si stanno già studiando nuovi metodi per renderlo meno inquinante, nuove sostanze meno dannose, però tuttora lo è. E poi c'è il forte sospetto, anche se non ci sono prove proprio definitive, che possa provocare anche dei sismi. Ecco, sì, che è un tema che si è anche toccato in questo paese quando abbiamo... nel nostro paese l'allarme era completamente sballato, perché noi non stiamo facendo estrazioni di shale gas o shale oil, per cui non era il caso di suscitare allarmi così forti. È chiaro. Allora, Carlo Stagnaro, vorrei capire come cambiano gli assetti a questo punto, perché insomma l'idea degli Stati Uniti completamente autosufficienti, addirittura primi produttori di petrolio del pianeta, insomma ha un impatto su quelli che, come dicevamo, sono gli assetti internazionali da che ce li ricordiamo ormai, insomma, con la centralità che ha il petrolio. Ma sì, cambiano tantissime cose. La prima cosa che cambia è che, come dire, seppelliamo una serie di discussioni che abbiamo avuto negli ultimi anni riguardo al cosiddetto picco del petrolio, cioè l'idea che la base delle risorse fosse nota in anticipo e data fin dalla notte dei tempi, e per cui la loro produzione dovesse inevitabilmente raggiungere un picco oltre il quale sarebbe andata inesorabilmente decrescendo. Gli Stati Uniti, essendo il territorio, lo sottosuolo più noto, più esplorato e più sfruttato al mondo, sono stati in qualche maniera per decenni la prova empirica o l'argomento empirico portato a supporto di questa tesi, perché, come dire, l'andamento del diagramma di produzione aveva effettivamente questo tipico andamento a curva di campana, e oggi vediamo che la campana ha riniziato a salire. Siamo tornati e la produzione sta tornando a crescere. Nel 2015 si prevede arriverà a circa 8 milioni di barili giorno, cioè la produzione del 1988, e più avanti negli anni, più avanti nel tempo, è possibile che gli Stati Uniti, se non arrivino alla piena autosufficienza, che vorrebbe dire grosso modo gli attuali ritmi di consumo 20 milioni di barili giorno, quindi comunque un quantitativo estremamente ingente, quantomeno a coprire una larga fetta del proprio fabbisogno attraverso produzione domestica, produzione nazionale. Questo vuol dire anzitutto che gli Stati Uniti come bacino di produzione e di consumo dovranno dipendere in misura molto meno rilevante dalle importazioni, sebbene l'importazione americana fosse in larga parte da paesi, diciamo, tranquilli, Canada, Messico, eccetera, e quindi presumibilmente avranno anche un allentamento, diciamo, della sensibilità politica o geopolitica rispetto a quelli che sono i territori di produzione storica del greggio e del petrolio. E significa anche che gli Stati Uniti, producendo di più domesticamente e importando di meno dal resto del mondo, libereranno una grossa quantità di risorse a favore di altri, degli altri paesi e degli altri bacini di consumo. Questo a sua volta implica, a parità di altre condizioni, da un lato un effetto di contenimento sui prezzi, cioè grazie allo sviluppo americano possiamo ragionevolmente aspettarci che avremo prezzi inferiori a quelli che avremmo avuto in assenza di questi sviluppi, e dall'altro una maggiore tranquillità rispetto alla possibilità, alla capacità di produzione di mantenere i ritmi della domanda. Noi, come dire, siamo un po' deformati dai 5 anni di recessione europea che ci hanno in qualche maniera spinti a pensare che la domanda continuerà a calare o comunque non avrà grandi scossoni, ma c'è un pezzo significativo di mondo, cioè tutto il mondo in via di sviluppo, che invece ha una domanda crescente, e qualcuno, guardando i numeri, potrebbe in qualche maniera avere il sospetto che arriveremmo in tempi non lunghissimi a trovarci in situazioni di tensione sui volumi simili a quelle sperimentate negli anni pre-crisi. Diciamo che la produzione, il boom della produzione americana di risorse non convenzionali ci tranquillizza sotto questo aspetto. Germano, si sta già vedendo l'effetto sui prezzi o si vedrà a breve? Che idea vi state facendo voi? Beh, valutare i prezzi del petrolio è sempre più, diciamo, una scienza da indovini che altro, quindi è assolutamente molto difficile. Peraltro i volumi di produzione di questo tipo di olio, che è denominato light tight oil, LTO, sono ancora abbastanza marginali. Non è neanche il tipo di petrolio che setta il prezzo, cioè non è il petrolio marginale, quindi direi che ad oggi è difficile quantificare questo effetto. Chiaramente, concordo con quello che si diceva prima, è produzione aggiuntiva rispetto a quello che ci aspettavamo. Quindi sicuramente contribuirà a togliere tensione tra domanda e offerta nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Fare una stima di quanto impatti sul prezzo del petrolio, francamente, sì, non, è impossibile. Non chiedevo cifre, perché so che da questo punto di vista è complicato. Sì, poi ci fichiamo nell'ambito delle previsioni che, insomma, abbiamo anche tante volte stigmatizzate, non solo dal lato del prezzo del petrolio, ma anche dal lato delle previsioni economiche che andiamo a rivedere costantemente. Sissi Bellomo voleva dire qualcosa. L'effetto l'ha avuto, non in termini di alleggerimento dei prezzi di riferimento internazionali, però per esempio il WTI, il riferimento di prezzo americano, che è sempre stato più o meno agli stessi livelli del nostro Brent, è da anni ormai molto più economico del Brent, oltre $10, è arrivato anche a quasi $30 meno del Brent, questo per effetto di questa sovrapproduzione americana. Altri effetti che ha avuto è di rendere più economico l'approvvigionamento di greggio per chi opera negli Stati Uniti, per cui gli impianti di raffinazione, i raffinatori, chi produce benzina e carburante negli Stati Uniti lo fa con un costo minore, con margini più ricchi. Germano? Su questo punto volevo fare una precisazione un po' tecnica, ma secondo me è importante. Quando parliamo di gli Stati Uniti che diventano degli autonomi dal punto di vista energetico, ricordiamoci che stiamo parlando in realtà di un possibile potenziale al 2030 autosufficienza a livello di import netto. Questo non vuol dire che gli Stati Uniti non avranno più bisogno di commerciare prodotti petroliferi con altri paesi, perché ricordiamoci che le raffinerie funzionano con dei mix di greggi specifici, e in particolare le raffinerie americane sono attualmente configurate per funzionare con tutta una serie di greggi che vengono da regioni diverse del mondo. quello che viene prodotto attualmente con queste tecnologie negli Stati Uniti non va tanto bene per la configurazione di raffinerie statunitensi. Quindi continueranno ad esserci dei flussi di commercio di petrolio. Uno può dire, sembra assurdo, ma ci saranno petroliere che dagli Stati Uniti vanno da un'altra parte e altre che arrivano negli Stati Uniti. Quindi un po' meno di isolamento internazionale. Sì, a meno che le raffinerie non convertano gli impianti progressivamente. È molto costoso. Molto costoso. Cui, sì. Molto costoso, ci vuole tempo e soldi. Veniamo, Sissi Bellomo, all'aspetto politico. L'OPEC lo sente il fiato sul collo di tutto questo? Sì, senz'altro, senza dubbio. Hanno cominciato anche qua e là alcuni ministri dell'OPEC ad ammetterlo dopo anni di negazionismo. Sì, è un fenomeno transitorio, sì, ma noi non c'entriamo, no, c'entrano come. Per alcuni paesi soprattutto questo è vero. Alcuni paesi che producono, ecco qui entriamo di nuovo nel discorso tecnico che faceva Germano, noi parliamo di petrolio genericamente, però chi opera nel settore sa benissimo che ci sono decine e decine di qualità diverse di petrolio con specifiche diverse in termini di quantità di zolfo, in termini di maggiore o minore facilità di estrazione della benzina. E chi produce all'interno dell'OPEC dei greggi molto simili a quelli ottenuti attraverso il fracking, molto simili allo shale oil, comincia a soffrire notevolmente. L'esempio più eclatante è quello della Nigeria, che produce dei greggi sweet light, così si chiamano tecnicamente, insomma dolci con poco zolfo, leggeri, e molto adatti alle benzine, che agli Stati Uniti piacevano moltissimo, sono grandissimi consumatori di benzine, i maggiori consumatori di benzine. Dei greggi nigeriani non hanno più bisogno di un tempo, nel giro di un paio d'anni si è dimezzata l'importazione americana di greggi nigeriani e la Nigeria ha difficoltà a piazzarli su altri mercati, deve scontarli. Non trova clienti alternativi anche a causa della crisi in Europa, ovviamente, che ha diminuito i consumi. Altri paesi che hanno già sofferto un impatto sono l'Angola, l'Algeria. Anche loro, le loro esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite molto. Il mercato del greggio ovviamente è globale, per cui ci saranno degli adattamenti dei flussi di trasporto, di esportazione, però anche questa è una cosa graduale che dipende anche dalle specifiche degli impianti di raffinazione, dalla salute o meno dei mercati di destinazione. Insomma, l'OPEC ha di fronte a sé una sfida veramente, veramente importante. Forse non ancora in termini di quantità prodotta dagli Stati Uniti, perché hanno aggiunto poi 1,5 milioni di barili al giorno su un mercato che ne ha circa 90 a livello globale, quindi tutto sommato è una goccia. Però alla lunga potrebbero anche doversi trovare di fronte a scelte difficili, per loro sono sempre difficilissime ovviamente, di doverla magari ridurre la propria produzione per sostenere i prezzi internazionali. E quello, insomma, bisognerà vedere se ce la fanno, bisognerà vedere come ce la fanno. Speriamo che non ce la facciano per noi, perché quello sarà il momento in cui forse finalmente vedremo un effetto sui prezzi del barile. Massimo Nicolazzi, amministratore delegato di Centrex, autore del Prezzo del Petrolio, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Si diceva, non era ancora collegato, credo, insomma, io chiedevo a Sissi Bellomo, tra l'altro lei ci parla da Vienna, se l'OPEC sta sentendo il fiato sul collo dell'estrazione di petrolio tramite questi nuovi sistemi da parte degli Stati Uniti. Ha sentito la risposta di Bellomo. Secondo lei lo sento il fiato sul collo? Questo ha un impatto, e questo le voglio chiedere, sui rapporti internazionali, su quella che viene definita la situazione geopolitica, insomma questa modifica negli assetti energetici? Ma sa, il tema è di capire se alla fine parliamo di un gioco a somma zero oppure no, nel senso che oltre al dato, io ho sentito solo la fine dell'intervento di Sissi Bellomo. Alla produzione in più degli Stati Uniti dobbiamo forse aggiungere anche il consumo in meno, nel senso che a fronte di meno di 2 milioni di aumento della produzione, dal 2005 ad oggi abbiamo 3 milioni secchi quasi di diminuzione dei consumi interni. Se io li sommo, questi sono 5 milioni di barili che nel 2005 l'America comprava sul mercato internazionale e che adesso sono stati restituiti al mercato in qualche modo. Il tema è di capire se c'è un riassorbimento in parallelo, come c'è stato in questi anni, da parte dell'altro polo che cresce, cioè fondamentalmente dalla Cina e dal resto dell'Asia. Gli aumenti dei consumi cinesi e indiani combinati sono meno di quello che l'America ha tolto dal mercato dal 2005 ad oggi. E però ciò nonostante il prezzo del barile continua ad essere sopra i $100, quindi una situazione di prezzo oltre i 100 sta diventando ormai di normalità. Se la guardo con un passo più avanti a qualcuno che ama spy stories, thrillers, vuole una coloritura geopolitica, il risultato di questa situazione è che già oggi dagli stretti di Hormuz passa più petrolio che va in Cina che non petrolio che va negli Stati Uniti, e che se riusciranno a fare un previsto rinforzamento di oleodotto che consentirà di tagliare Hormuz e di imbarcare il saudita da Aden, dagli stretti di Hormuz passerà quasi solo petrolio che va in Asia. Forse ci cambia il colore del paracadutista, non so come dire. E cioè ci spieghi un po' meglio, va, che insomma. No, noi abbiamo sempre ritenuto assiomatico negli anni scorsi che gli americani dovessero presidiare Hormuz, perché questo era vitale per il loro approvvigionamento energetico e petrolifero. Progressivamente da domani non lo è più, poi ognuno giochi con lo scenario che vuole, però sicuramente c'è un cambio di assumption nello scenario piuttosto forte. 9 in punto. Ed eccoci, seconda parte di 9 in punto. Per correttezza ve lo ribadisco, questa puntata è registrata in questo lunedì di Pasquetta, stiamo cercando di gettare uno sguardo sul futuro energetico del pianeta, niente popò di meno. E però io voglio anche venire all'Italia. Allora, Carlo Stagnaro, che abbiamo abbandonato in questi ultimi minuti, direttore ricerche, studi e l'Istituto Bruno Leoni. Ma questa roba, lo shale gas e lo shale oil, in Italia ci sono oppure no? Ci sono in Europa? Cioè, c'è una qualche possibilità di conquistare, non dico indipendenza energetica, ma insomma un filo più di risorse nostre? Beh, allora, per rispondere alla sua domanda, in senso stretto ci sono alcuni paesi europei che hanno probabili o accertate risorse non convenzionali, in particolare nel gas, penso alla Polonia, alla Francia, che però ha introdotto una moratoria sul loro sfruttamento, o alla Gran Bretagna e altri paesi che è molto improbabile che abbiano questo tipo di risorse, tra cui l'Italia. Questo non significa che la rivoluzione dell'unconventional non abbia impatti diretti e indiretti anche per noi, nel senso che l'aumento della disponibilità di risorse a livello globale, in presenza di mercati che hanno appunto una dimensione globale, come quello petrolifero, che è uno dei più grandi economisti del petrolio della storia, cioè Maurice Adelman definiva un'unica grande pozza, per cui, come dire, il livello dell'acqua sulla riva destra non è indipendente dal livello dell'acqua sulla riva sinistra. È chiaro che in queste condizioni i cambiamenti si trasmettono e si propagano a tutto il mondo. Il mercato del gas è diverso perché ha una caratura più regionale per un problema di infrastruttura. Il petrolio viaggia tranquillamente via nave, il gas per viaggiare via nave ha maggiori difficoltà, nel senso che è necessario un'infrastruttura di tipo diverso, mentre tende a viaggiare prevalentemente via tubo, che è rigido ovviamente. Io un tubo non posso ridirigerlo in una direzione diversa, ma tuttavia anche nel caso del gas l'incremento della quota di gas scambiato in forma liquida e quindi via nave sta consentendo di connettere mercati differenti e quindi di trasmettere i segnali di prezzo che emergono su un mercato, per esempio quello nordamericano, altro mercato. Ammesso poi che uno ce li abbia i rigassificatori, perché poi quello anche è il problema, no? Insomma. No, naturalmente bisogna avere un'infrastruttura sufficiente e bisogna che vi siano le condizioni per cui questa infrastruttura sia utilizzata. Qui abbiamo, dal mio punto di vista, un grande problema, che è gli Stati Uniti. Tutta la regolamentazione in tema energetico degli Stati Uniti è predicata su un pregiudizio che risale agli anni 70, in virtù del quale la domanda sarebbe stata inesorabilmente continuamente crescente e la produzione sarebbe stata inesorabilmente e continuamente in riduzione. Quindi gli Stati Uniti hanno un sistema regolatorio che è ostile all'esportazione. Oggi si trovano in una situazione inedita, in particolare riguardo al gas, perché hanno un probabile eccesso di produzione che produce prezzi nazionali sul gas, in particolare estremamente bassi. Ora, se gli Stati Uniti non trovano il modo di aprirsi in maniera più facile all'esportazione di gas, è chiaro che almeno in parte la rivoluzione che hanno avuto in casa loro resterà confinata in casa loro e non arriverà integralmente in casa nostra. Ma l'importante in questo senso è cercare di spingere gli Stati Uniti ad aprirsi anche riguardo ai mercati energetici. I dibattiti e le discussioni che ci sono in questi giorni, in queste settimane, sulla negoziazione di un accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti possono fornire l'occasione, lo strumento, il momento e il luogo per affrontare questo tipo di discussioni. E chiudo con una postilla. Lei citava il tema dell'autosufficienza, indipendenza, eccetera. A me pare che sia più importante creare condizioni per avere un'efficace interdipendenza. Cioè, il problema non è importare risorse energetiche. Se le importiamo è perché sono più convenienti quelle importate rispetto a quelle disponibili sul suolo nazionale. Il problema è garantire che non vi sia la dipendenza da un numero ristretto di fornitori, che è in parte un problema che l'Italia oggi ha, e garantire che il mercato sia sufficientemente interallacciato in maniera tale che se per qualunque ragione vi è uno shock, per esempio di produzione da qualche parte, si rompe un gasdotto, scoppia una guerra o che altro, comunque le risorse che non possono più arrivare per quella via possono arrivare per qualche altra via. Ancora una volta, i rigassificatori, l'incremento della quota di gas che viaggia in forma liquida su navi può essere una parte molto importante della risposta. Rigassificatori, sui quali non li citavo a caso, abbiamo un problema storico. Della scorsa settimana la notizia che si stanno rinfocolando, tra l'altro, se vogliamo, anche probabilmente a causa della situazione politica che c'è in questo momento, le proteste contro il rigassificatore di Gioia. Il Partito Democratico insieme a Sinistra Ecologia e Libertà è andato a manifestare contro questo. Questo è, secondo me, un segnale interessante dal punto di vista politico. Ve la butto là, ve la segnalo, insomma, andate a cercare le cose. Magari poi su questo tema prima o poi ci torneremo, invece, con una puntata più di attualità. Sissi Bellomo, su questo punto qua, insomma, sul punto del quale discutevamo con Stagnaro, nel momento nel quale gli Stati Uniti aprissero il mercato col gas liquefatto e noi avessimo le infrastrutture, perché poi, insomma, ripeto, è sempre quello il punto, sarebbe un'offerta aggiuntiva che, d'altra parte, anche se non si aprono tanto, c'è, perché producendo molto più gas in casa ne importeranno meno in prospettiva, quindi qualcosa si smuove comunque. È un grossissimo dibattito politico che hanno all'interno degli Stati Uniti proprio in questo periodo, comunque, perché aprirsi all'export fa temere che possa livellare i prezzi statunitensi, o comunque appiattire questa differenza rispetto ai prezzi internazionali, danneggiando quella che è una nuova nascente rivoluzione industriale, secondo alcuni osservatori, perché questo gas così basso come prezzo è un terzo della media dei prezzi europei, anche adesso che è risalito di prezzo, e addirittura un quinto, un sesto rispetto ai prezzi che paghiamo noi in Italia, dove è particolarmente caro. Questo sta attirando nuovi investimenti per la prima volta da decenni in campo petrolchimico, in campo manifatturiero. Il timore di una parte degli americani, c'è veramente un grosso dibattito, una grossa contrapposizione, che se si mettono a esportare troppo perdono questo vantaggio competitivo e perdono queste opportunità di reindustrializzazione del paese. Ovviamente nell'interesse di noi consumatori, di noi all'esterno degli Stati Uniti, è forte il desiderio che invece questo gas possa finire sui mercati. molti esperti, molti osservatori ritengono che non ne arriverà comunque tantissimo da rivoluzionare. Sarà una fonte in più, sarà un nuovo possibile fornitore che aumenta la diversificazione, aumenta la liquidità del mercato, eccetera, eccetera. Però ovvio bisogna poterlo rigassificare, perché gli Stati Uniti, se esportano verso l'Europa, lo fanno sotto forma di GNL, di gas liquefatto. Ovviamente non possiamo immaginare un tubo sotto l'Oceano Atlantico. Carlo Germano. Volevo aggiungere qualche fatto alla situazione attuale sull'equilibrio del gas mondiale. Sicuramente è vero, gli Stati Uniti si stanno dibattendo se esportare o meno gas. Alcuni contratti di esportazione esistono già, vengono concessi su una base case by case, uno per uno. Chase Chenier, per esempio, sta già esportando. Quello che è molto interessante rilevare è che attualmente sul mercato del gas esistono dei prezzi molto diversi tra Stati Uniti, Europa e Asia. Grandi consumatori, grande domanda aggiuntiva di gas è sicuramente guidata dall'Asia. Sui mercati asiatici stiamo parlando di un livello di prezzi, parlando in dollari per MMBTU, che sta sui 14-15 dollari per MMBTU, per darvi un'idea. In Europa siamo in un intorno dei 10, negli Stati Uniti siamo in un intorno dei 3-4. Sì. Quindi delle tensioni molto forti. L'export dagli Stati Uniti quindi ad oggi non viene in Europa, perché trova dei prezzi molto migliori in Asia. In Asia anche in prospettiva, certo. Quindi voglio dire, per noi l'impatto è di secondo o terzo ordine, non immediatamente. Chiaramente prima o poi queste tensioni si ribilanceranno, ma ad oggi se gli Stati Uniti esportano non manderanno le navi in Europa, e non per mancanza di rigassificatori, ma perché fanno più soldi in Giappone, banalmente. Ci fermiamo ancora un attimo, abbiamo la viabilità e poi ritorniamo. Come avete sentito, abbiamo virato un po' da questa rivoluzione annunciata dello shale oil, ossia di questo nuovo metodo di estrazione del petrolio, a quella già in atto dello shale gas, e anzi forse già non dico compiuta, ma insomma, ecco, della quale abbiamo evidenze più forti. Continuiamo a parlarne nel blocco di chiusura di questa puntata dopo la viabilità. 9 in punto. Siamo nella parte finale della trasmissione. Mi ha incuriosito una cosa che diceva Carlo Stagnaro, della quale tra l'altro ho letto naturalmente anche sul Sole 24 Ore, sempre sugli articoli firmati dalla nostra Sissi Bellomo, e che riguarda lo shale gas polacco. Perché vorrebbe dire trovarsi un produttore di gas, forse notevole, non so in che dimensioni, ad un passo da casa, e tra l'altro in Europa. Nicolazzi, questo potrebbe cambiare qualcosa, sì o no? Lentopede, si può edes. Voglio dire, noi abbiamo in questo momento una serie di bacini sui quali c'è forte ricerca in Europa, soprattutto in Polonia, in un bacino svedese, in un profondo austriaco, e adesso credo che sarà molto intensa l'esplorazione soprattutto in Ucraina. È troppo presto per dire dove va questa cosa, perché non abbiamo dei dati ancora abbastanza affidabili sul coefficiente di riempimento della roccia madre, insomma su quanta roba c'è dentro per metro cubo di roccia. Potremmo anche avere, a seconda delle legislazioni e delle situazioni nazionali, degli ostacoli sopra la terra anziché nel sottosuolo alla coltivazione e alla produzione maggiori di quelli che si trovano negli Stati Uniti, e questi anche nei paesi dell'est europeo. In Polonia abbiamo qualche major che ci ha detto andiamo avanti, ci pare promettente, abbiamo altre major che si sono già ritirate dai loro bacini. Per la Polonia lo shale è una grande bandiera per domani, ma come dire, è troppo presto per fare una previsione. Carlo Stagnaro, c'è qualcosa che parzialmente accennava Nicolazzi e che abbiamo, in realtà, del quale abbiamo parlato in apertura di trasmissione, ed è come queste, come viene estratto, insomma, come viene estratto sia il petrolio che il gas sostanzialmente, insomma, con che mezzi. Diceva Nicolazzi, insomma, ci potrebbe essere, si potrebbe presentare in Europa rispetto agli Stati Uniti qualche vincolo. C'è un problema ambientale da questo lato sul quale evidentemente bisogna ragionare? Ma sicuramente sì, nel senso, come diceva, come ricordava Sissi Bellomo, credo nel suo primo intervento, la tecnica estrattiva delle risorse non convenzionali prevede essenzialmente di iniettare nel sottosuolo dei grandi volumi di acqua in pressione misti a solventi chimici, sostanze chimiche, che devono poi essere recuperate e depurate prima di essere restituite all'ambiente. E tutto questo deve avvenire in condizioni di sicurezza tali da evitare la dispersione, inquinamento e quant'altro. A questo si aggiungono fenomeni di inquinamento acustico e il fatto che tipicamente, a differenza di un pozzo in produzione convenzionale che come dire, sta lì e fa il suo mestiere nella stessa posizione per un periodo di tempo molto lungo, le strutture che servono per sfruttare i giacimenti non convenzionali tendono invece a spostarsi e quindi a generare traffico, a generare inconvenienti per chi abita nei dintorni. Ora, questo è un tipo di problema relativamente poco rilevante nel Nord Dakota, dove la densità della popolazione è quella che è evidentemente un problema di un ordine diverso in Europa, dove la densità abitativa è decisamente superiore. Dal mio punto di vista ci sono due tipi di questioni che vanno però distinte in maniera netta. Una è quella relativa all'impatto ambientale, nel senso dell'inquinamento e quant'altro, che presuppone avere delle forme di regolamentazione ragionevolmente severe, delle forme di controllo, delle possibilità di controllo adeguate a controllare che le regole vengano rispettate per garantire che tutto sia fatto dal punto di vista tecnico nella maniera corretta per prevenire o evitare forme di inquinamento, di esternalità ambientale negativa. C'è poi invece un tema probabilmente più complesso relativo invece all'accettabilità sociale di questo tipo di produzioni. Anche quando fosse certo e garantito che non vi è inquinamento, che il disagio è limitato al massimo e così via, noi, voglio dire, in Italia questo è un tema che conosciamo benissimo, sappiamo che non necessariamente le comunità locali possono essere disposte ad accettare o tollerare, e questo implica che possono esistere delle opportunità che possono andare perse a causa di questo tipo di problema. Da un lato c'è una questione legata alla comunicazione, occorre informare con trasparenza, spiegare quali sono i rischi e quali sono gli strumenti adottati per contenere questi rischi, e dall'altro c'è un tema legato alle procedure, i metodi autorizzativi che devono essere sufficientemente efficaci nel garantire la protezione dell'interesse generale contro i vari rischi di vario tipo, ma dall'altro lato devono essere sufficientemente efficaci per consentire lo sfruttamento delle risorse laddove questo sia economicamente ragionevole, cosa che in molti paesi non sono, l'Italia tra questi, ma l'Italia abbiamo visto non ha probabilmente risorse non convenzionali, quindi appunto, dico, un problema che non avremo. Sì, stavo per dire, insomma, un problema che riguarderà i polacchi, gli ucraini, ma molto probabilmente non riguarderà noi. Chiudiamo così questa trasmissione. Ve lo ricordo, è stata una puntata registrata. Se avete chiamato l'800 24 00 24 per intervenire in diretta, non vi abbiamo risposto esattamente per questo motivo. Io saluto e ringrazio Carlo Germano, partner di McKinsey e responsabile energia per l'Italia, Massimo Nicolazzi, amministratore delegato di Centrex, autore del prezzo del petrolio, Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, che avete appena sentito, Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore, comprate e leggete, andate fino alle ultime pagine, lato materie prime, e ci trovate la sua firma, perché non ve le perdete, perché sennò poi vi perdete cose importanti che si trasformano, che insomma, improvvisamente dite che è successo qua? Insomma, gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore di petrolio del mondo e nemmeno me ne sono accorto. Se aveste letto il Sole 24 Ore avreste saputo che quel momento, insomma, era di lì a verificarsi. Grazie anche Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 90 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli.